Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera ci apprestiamo a concludere il breve excursus di questa settimana sulle tecnologie che prevediamo si svilupperanno nel prossimo decennio e che avranno un importante impatto sul tema della sostenibilità. Ebbene, tra queste c'è anche il 6G, cioè il prossimo paradigma di rete wireless che proprio a partire dal 2030 dovrebbe iniziare a diffondersi. Le tecnologie per le comunicazioni wireless come il 5G che si sta diffondendo adesso, ma anche altre, trovano già oggi delle applicazioni diciamo legate alla sostenibilità, per esempio in settori come il monitoraggio ambientale, nella misura in tempo reale dei consumi energetici, nello sviluppo dell'agricoltura di precisione. Ma il 6G promette quantomeno un salto di qualità su tutte queste tematiche e probabilmente anche alcune applicazioni innovative. Ne parliamo con Lorenzo Mucchi, che è professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Firenze, insegna tra le altre cose reti dati per le applicazioni industriali e noi gli diamo il benvenuto. Buonasera Mucchi. Grazie, buonasera a tutti. Allora, senta, intanto vabbè, in questo momento siamo in una fase storica in cui si sta definendo che cosa sarà e che cosa dovrà essere capace di fare il 6G. E allora le chiedo appunto quali saranno realisticamente gli elementi innovativi. Sarà solo un 5G più veloce o sarà qualcosa di diverso? No, non sarà solo un 5G più veloce. Ora, ovviamente questa maggior velocità del 6G è prevista e diciamo anche un po' nell'evoluzione delle cose, ma non sarà solo questo. Ci sarà anche un'attenzione particolare, ad esempio, ai consumi energetici di questa tecnologia, così come ad esempio un'attenzione molto particolare anche al diciamo alla latenza estremamente più bassa. Cioè il ritardo, no? Comunicazione. Sì, il ritardo di comunicazione, diciamo, il ritardo che un'informazione necessita per passare da chi questa informazione la genera a chi la utilizza. Esatto. Tutto questo abiliterà tutta una nuova serie di servizi che la tecnologia attuale non può fornire. Ad esempio, per capirsi, la possibilità di poter rendere intelligente degli oggetti, come ad esempio una semplice bottiglietta d'acqua. Ecco, ma riesce a dirci qualche numero? Sì, certo. Diciamo come ritardo massimo 0,1 millisecondi. Caspita. E diciamo oltre a questo la stabilità di questo numero, cioè questo numero non può oscillare oltre una certa soglia, cosa che invece il 5G non definisce. Come velocità si parla di terabyte al secondo nel 6G, giusto per darvi un esempio, 150 film ultra HD in un secondo, qualcosa di questo genere. Beh, poi ci vorrà parecchio tempo per vederli, però. Senta, allora veniamo alle ricadute sul tema della sostenibilità. Quali sono i settori su cui si prevede un impatto importante? Sicuramente quello dell'efficientamento energetico, come vi dicevo, anche il 6G per la prima volta impone dei limiti su quanta energia viene spesa per muovere un'informazione, quindi si parla di un limite in termini proprio di watt per muovere un terabyte di informazione, quindi questo è già un limite di cui questa tecnologia deve tener conto. Si fa carico, ecco, ricordiamo che i consumi legati a tutta la dimensione digitale stanno crescendo con una velocità mostruosa. Se non gli si pone un freno, finirà che consumiamo più lì che con tutto il resto. Insomma, è un problema serio. Qua invece come prerequisito c'è l'altissima efficienza. Sì, è corretto, esattamente. È un requisito fin dall'inizio, fin dalla prima progettazione. Oltre a questo c'è la possibilità di questo tessuto connettivo che è il 6G di poter dare connettività a milioni di dispositivi per chilometro quadrato. Questo implica la possibilità anche di avere una fotografia dell'ambiente in tempo reale, anche su vaste aree geografiche, non necessariamente solo nella città, nella cosiddetta smart city, ma proprio un territorio geograficamente, anche aree rurali oppure aree coltivate, perché ovviamente nel 2030 ci sarà anche la necessità di mantenere il nostro ambiente Eh sì, efficiente, le nostre purtroppo. coltivazioni efficienti. Questo si prospetta il 6G proprio con un tessuto connettivo pervasivo che può dare connessione diciamo ovunque, e quindi io ho la possibilità di prelevare informazioni da tutti gli ambienti in cui i cittadini, gli esseri umani vivono. Poi lei parlava della bottiglietta d'acqua prima, no? Immaginiamo sul tema dell'economia circolare cosa vuol dire poter realmente seguire ogni singolo rifiuto. Avere questa capacità che oggi oggettivamente non c'è per appunto tracciare il ciclo di vita di tutti i prodotti. Senta, ma perché lei parla di tessuto connettivo e non di rete? Sì, perché il 6G in effetti evolve il concetto di rete. Per farle capire, le faccio una metafora. Il 5G lei lo può vedere come una coperta che è realizzata da una serie di toppe di tessuti cuciti insieme, mentre il 6G lo può vedere invece proprio come, come dire, una coperta che è omogenea, il cui tessuto è omogeneo e resistente allo stesso modo in tutti i punti. Quindi non è un'aggregazione, Di celle, per così dire. un'integrazione di cellule, sì, di tecnologie anche eterogenee. È un, Un proprio l'idea è quella continuum, di per avere, così dire. esatto, proprio così, un continuum che ha le stesse caratteristiche ovunque. Grazie, grazie Lorenzo Mucchi e alla prossima. Ecco, Grazie mille a tutti voi, grazie. prima di lasciarci vale la pena fare un'ultima riflessione, perché se è vero che il futuro delle telecomunicazioni sarà un futuro wireless, è pur vero che ogni infrastruttura wireless ha bisogno di un'ossatura, e questa ossatura che è costituita dalla rete in fibra ottica nel nostro paese è ancora molto fragile. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buon fine settimana. Enel vi ha presentato Smart City.